La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole di questa settimana è dedicato alla figura di Piero Gobetti, giovane intellettuale liberale e antifascista. Ospite ai nostri microfoni Fabio Galluccio, della Federazione Italiana Associazioni Partigiane, che ha introdotto la serata dedicata alla lettura dei carteggi tra Piero e Ada Gobetti, tenutasi il 18 settembre alla Casa della Memoria e della Storia di Roma, per il ciclo di incontri La Sera Andavamo. Piero Gobetti, giovane intellettuale liberale antifascista che nel corso della sua brevissima vita morì a Parigi in esilio il 5 febbraio del 1926 a soli 25 anni. Lui, Piero, che ci ha lasciato scritti e riflessioni di grande rigore e libertà intellettuale, come La rivoluzione liberale, saggio sulla lotta politica in Italia. Lei, Ada, la moglie, che dice di se stessa: sono una creatura selvaggia che ha bisogno di cantare e di correre cogliendo fiori. Sono fatta di impeto e non di riflessione per ora. Piero invece, che già nel settembre del 1922, dopo aver subito minacce dai fascisti ed essere stato arrestato già due volte, dice di sé: i miei pensieri sono liberi da ogni illusione ottimistica, ma il mio pessimismo, se così si può chiamare, è più un metodo che una categoria, è una impassibilità dignitosa, una rigorosa aridità e un'operosa freddezza. Novembre 1918. Piero Gobetti ha 17 anni quando viene pubblicato a Torino il primo numero del quindicinale Energie Nuove, di cui Gobetti è fondatore e direttore. Il primo numero, commenta Gaetano Salvemini, è ottimo per serietà e franchezza di opinioni. Il 12 febbraio 1922 viene pubblicato il primo numero della Rivoluzione Liberale, con l'intento di contribuire a formare una classe politica che abbia chiara coscienza delle sue tradizioni storiche e delle esigenze sociali nascenti dalla partecipazione del popolo alla vita dello Stato. Il 6 febbraio e il 19 maggio 1923 Gobetti viene arrestato e poi rilasciato. Il 5 settembre 1924 è aggredito da un gruppo di fascisti mentre esce di casa in via 20 settembre. Nel gennaio del 1925 la Rivoluzione Liberale viene sequestrata. Il 6 febbraio 1926 Gobetti parte in esilio per Parigi, lasciando a Torino la moglie Ada e il figlio Paolo, nato due mesi prima. Si ammala gravemente di bronchite. In pochi giorni le sue condizioni si aggravano. Muore il 15 febbraio, a soli 25 anni. Piero e Ada Gobetti. Dal loro carteggio emerge un profilo netto di grande spessore umano, oltre che intellettuale. E allora ascoltiamole insieme le voci di questi due giovani, rievocati la scorsa settimana a Roma nell'ambito degli appuntamenti con La Sera Andavamo A, alla Casa della Memoria. Le letture sono di Sebastiano Colla e Viola Graziosi, tratte dal libro Nella tua breve esistenza di Piero e Ada Gobetti, pubblicato da Einaudi. Firenze, 17 aprile 1919. Alla signorina Didi. Sono le 10:45 di sera. Lascio Prezzolini e posso alfine pensare un po' liberamente a perdere del tempo per te. Ho fatto da ieri un mucchio di esperienze. Ti volevo scrivere un mucchio di impressioni che ho provato qui a Firenze all'arrivo, alla prima contemplazione di questa cittaduzza che si vede in un modo e si pensa in un altro. Si è preceduto oggi alla dichiarazione di principi una discussione animatissima. Salvemini è un genio. Me lo immaginavo proprio così, l'uomo che sviscera le questioni, che la fa smettere agli importuni e ti presenta tutte le soluzioni in due minuti definitive. Oggi è stato meraviglioso nella questione della scuola, nella politica internazionale, nell'affermazione della nazione sempre rudemente, decisamente, potentemente. Un'altra persona di cui sono entusiasta è Prezzolini, franco, semplice, pratico. L'editore più intelligente d'Italia, come ti avevo detto, è insieme uno spirito libero. Un capo ameno che si mette a cantare le canzoni popolari per Firenze. Faremo con Prezzolini parecchie cose insieme. La sua libreria della voce sarà meravigliosa. Ti lascio. Saluta i tuoi. Piero Gobetti. Torino, 18 aprile 1919. Amore sempre tantissimo. La tua lettera scritta in treno, così bella, così dolce, mi ha fatto tanto tanto sognare e sorridere. La tua cartolina mi ha svegliato nelle ossa un fervore di lavoro. E sto lavorando. Faccio il sunto del Mondaini, molto interessante. Eppure sento la nostalgia di non poter appoggiare il capo sul tuo cuore, come sempre, di non vederti sorridere. Ti piace Salvemini? E tutta quell'altra brava gente? Credi che si potrà fare molto? Ho una tal voglia di agire, di fare, e nello stesso tempo un tal disprezzo per tutta questa gente che mi circonda e che non capisce e non vuole capire e crede invece di capire. È terribile. Ma per fortuna c'è Piero. C'è il nostro amore e per questo la lotta non è solo grande, ma è anche dolce. Piero e Ada Gobetti, dunque, per commentare insieme a noi oggi in studio le figure di questi due personaggi di cui abbiamo appena ascoltato le voci, c'è Fabio Galluccio, che ringraziamo per la sua presenza, grazie per essere qua con noi. Prego. Che è segretario del Circolo Giustizia e Libertà a Roma, un'istituzione di lunga data, perché è stata fondata da Ferruccio Parri, e che ha introdotto la serata in rappresentanza appunto della Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane. A cosa si deve la scelta di rievocare questi due personaggi così straordinari? Ma la scelta credo che sia per ricordare due giovani. Gobetti, quando scriveva quelle lettere che abbiamo appena letto, aveva 18 anni, e Salvemini voleva affidargli la direzione del suo giornale, dell'Unità. E quindi, voglio dire, sono due personaggi che in qualche modo eccezionali hanno, come devo dire, rivoluzionato non solo la Torino di quegli anni, perché accanto a loro si radunarono una serie di personaggi noti e meno noti, basta pensare a Benedetto Croce e Luigi Einaudi, per citare i più noti, ma scoprirono anche delle persone eccezionali come Montale. Gobetti fu editore, tra le altre cose, pubblicò più di 100 testi in così breve durata. E perché Piero Gobetti rifiutò questa offerta di Salvemini di andare a dirigere l'Unità, che era cosa diversa ovviamente dall'Unità di oggi? Beh, un po' perché lui probabilmente aveva altri progetti, un po' perché pensava di dover lasciare Torino, ma anche se poi Salvemini l'aveva convinto che avrebbe potuto dirigere l'Unità anche da Torino, ma un po' forse anche perché si scherniva, era una persona, come dire, forse anche umile nella sua grandezza, insomma, e quindi non credeva neanche alle sue capacità in quel momento di dirigere un giornale così, così importante, avendo così grande rispetto, l'abbiamo sentito, per Salvemini. E qual è il profilo umano che esce fuori da questo carteggio così intenso, così bello, tra Piero e Ada Gobetti, dei due? Ma di una grande delicatezza d'animo. Credo che Gobetti, pur essendo un laico estremamente come dire, rigoroso, era una persona che voleva andare vergine al matrimonio, che vuol dire, per un laico e per una persona. E c'è una secondo me, una grande delicatezza d'animo, una grande capacità di Ada di capire questa persona così intellettualmente viva, ma anche lei era una donna che, non dimentichiamoci, dava grande spazio alla cultura. Insieme studiano il russo, che per quell'epoca era una cosa quasi eccezionale, traducono dal russo alcune cose, ma conoscono il francese, conoscono l'inglese. Era una donna anche lei di una grande cultura, insomma. Ecco, quanto invece al profilo intellettuale, politico, culturale di Piero Gobetti, dal carteggio emergono dei particolari che non si conoscono, che sono stati, come dire, sottovalutati alla storiografia, o poi viene confermato in pieno la figura di questo giovane intellettuale liberale? Ma credo che Gobetti, come dire, non si finisce mai di scoprirlo, ma neanche Ada, insomma, ricordiamoci che ha fondato il giornale dei genitori, che poi, quando morì lei, passò a Gianni Rodari, quindi insomma una grande pedagogista, poi è stata anche... non si conoscono fino a fondo questi personaggi che obiettivamente hanno dato moltissimo, hanno anche dato dei profili, come dire, di un liberalismo molto particolare, perché insomma Gobetti vedeva per esempio nei consigli di Fabbrica, sì, un liberalismo, perché diceva per lui il liberalismo era la partecipazione in tutte le sue sfaccettature, sia del cittadino nella vita politica, ma anche l'operaio nella vita come devo dire dell'azienda. Quindi insomma sono personaggi secondo me molto molto interessanti, che si scoprono come devo dire giorno dopo giorno.